Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno a tutti. Quando sono le 7:35 minuti, inizia una nuova mattinata insieme con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10. E cominciamo subito con un'occhiata ai giornali di oggi, una abbastanza rapida rassegna stampa di 20 minuti che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8. I nostri contatti 349-238-6666 per commentare in tempo reale quello che sentite, compreso su WhatsApp, e poi la pagina Facebook, lo sapete, Si può fare trattino radio 24, ci trovate anche su Twitter, @ Si può fare 24. Cominciamo, vai! E allora, giornali di oggi che naturalmente sono anche un po' in ritardo sugli eventi, perché titolano sul raid dell'America sulla Siria, sulla base aerea siriane, e quindi su un fatto che è accaduto quasi 24 ore fa e però che sui giornali di ieri non c'era, e poi la questione dell'attentato a Stoccolma. Anche qua avete sentito dal giornale radio, non ci sono grosse novità dal punto di vista della ricerca del responsabile. C'è stato un arresto, un paio di fermi però di una persona che si è anche accusata, ma dell'attentato, di avere condotto questo camion sulla centrale strada dello shopping di Stoccolma, però la polizia sta ancora cercando complici o direttamente responsabili di questo attentato, perché evidentemente non è ancora convinta di aver individuato il responsabile o i responsabili. Allora, naturalmente i titoli dei giornali sono tutti su questo, conviene dare un'occhiata proprio ai titoli per vedere come la buttano giù i giornali, con le sfumature nelle parole, nel linguaggio scelte per definire questo doppia momento di crisi importante che riguarda l'intero pianeta, possiamo tranquillamente dirlo. I missili di Trump sulla Siria, scrive il Corriere della Sera. Colpita la base dopo i raid con le armi chimiche, l'ira di Mosca, si muove la flotta russa. E poi fotonotizia con il centro di Stoccolma, la foto del camion che normalmente trasportava birre che si è schiantato alla fine della sua folle corsa sulle vetrine di un centro commerciale, lancia il camion contro la folla, terrore e morte a Stoccolma, 4 le vittime e un arrestato. Parla di guerra la Repubblica, la prima guerra di Trump, missili sulla base siriana, da lì sono partiti raid col gas, Putin parla di un atto di aggressione, la Cina invita ad evitare l'escalation. E sull'altro fronte, Stoccolma, camion sulla folla, 4 uccisi, terrorista in fuga, come Nizza e Berlino, strage al centro commerciale. Per la stampa si tratta di un duello sulla Siria, Trump-Putin, duello sulla Siria. Dopo il raid americano la Russia sposta le truppe. Infatti questo è quello che è accaduto, spostamenti di truppe che in parte erano previsti, fanno parte delle strategie militari di paesi come la Russia, che hanno interessi, anche gli Stati Uniti, e basi un po' ovunque nel mondo, magari non ovunque, ma insomma in molte postazioni in questo caso. Però questo spostamento di truppe nel Mediterraneo è stato letto come una reazione al raid di Trump sulle postazioni di Assad in Siria. Assad è alleato in questo momento della Russia. Washington che dice, sempre secondo la stampa, i gas meritavano una risposta. Sul fronte svedese Il titolo è sempre quello: camion sulla folla, il terrore arriva in Svezia, l'attacco nel centro di Stoccolma, 4 morti, molti feriti, è un attentato ed è caccia all'uomo, e così via. Se li accogli ti uccidono, questo è il titolo scelto da Libero. Sanguinoso attentato islamico a Stoccolma, un altro camion sulla folla fa morti e feriti, è la regola. I terroristi colpiscono i paesi più tolleranti nei confronti dei musulmani. L'Europa è sottomessa ed elogia i raid americani verso chi combatte l'ISIS. Gentiloni sta con Donald Trump contro Assad, Salvini e Meloni. Il nemico non è il leader siriano, è la regola, dice Libero. I terroristi colpiscono i paesi più tolleranti nei confronti dei musulmani, più accoglienti forse che tolleranti, perché nel caso della Francia si era detto il contrario, perché la Francia che discute di vietare il velo, che impone regole molto rigide nell'integrazione in pieno spirito repubblicano, che attacca l'ISIS in Siria, si era detto la Francia si espone alle ritorsioni proprio dell'ISIS. Adesso la Svezia non si espone a niente perché non fa parte di questo fronte in qualche modo guerrista, perdonatemi l'espressione, nei confronti dei teatri di guerra, no? Perché la Svezia non è fuori da tutto questo. Però insomma, vale la pena, però, anche se non si sa chi è stato a compiere l'attentato di Stoccolma ancora, perché non si hanno le generalità di chi è stato arrestato, non si sa se i responsabili di questo attentato sono ancora in fuga, ma insomma vale la pena leggere il commento in prima pagina sul Libero. Questa è la fotografia: Parigi, Bruxelles, Londra e ora Stoccolma. Il terrorismo islamico colpisce le capitali dell'accoglienza, dove la presenza musulmana è più folta, ma anziché integrazione produce ghetti. Non è una considerazione islamofoba, ma pura osservazione della realtà. La forte immigrazione porta la comunità islamica a chiudersi anziché aprirsi, la moltitudine le dà forza e rende impossibile al paese ospitante rispondere alle esigenze di chi arriva, sia di prima, sia di seconda o terza generazione. Il risultato sono plotoni di emarginati che vivono di espedienti e finiscono per essere anche loro carne da macello dell'ISIS, al cui servizio si mettono. L'Islam moderato, che non si è mai dato una rappresentanza credibile, non ha la forza di condannarli, tantomeno di redimerli, mentre l'Islam integralista parte dalle grandi metropoli europee ormai colonizzate per lanciare la sua offensiva alla conquista dell'Europa. Ripeto, anche se ancora non si sa chi è responsabile dell'attentato in Svezia, quindi forse occorre prudenza anche nel lanciarsi in commenti, ma non ci vuole molto per intuire che la matrice potrebbe essere la stessa degli attentati di Londra, di Bruxelles e di Parigi, cioè attentati a sfondo islamista, assolutamente sì. E quindi insomma vale la pena leggere questo commento, perché per una volta Libero fa un'analisi abbastanza fredda e sfido chiunque a non riconoscersi in questa analisi in qualche modo. Quindi non ci sono le solite magari invettive che altre volte sono titoli che possono urtare sensibilità, creare divisioni. Qua si fa una, appunto, analisi fredda, ma ripeto, abbastanza condivisibile, credo. Guerra globale, scrive il giornale, missili e tir. Trump colpisce la Siria e l'ISIS, colpisce l'Europa. Tra Russia e Stati Uniti ora la tensione è alle stelle. E insomma, questo per dire il Fatto Quotidiano: Trump in guerra contro Assad, l'Italia è con lui. 59 missili contro la base al Shariat, da cui sarebbero partiti i jet con le armi chimiche. Putin parla di aggressione, Gentiloni risposta motivata ad un crimine di guerra. Adesso cominciamo a vedere qualche approfondimento, qualche dettaglio, ma insomma stiamo così, diciamo, surfando sulle notizie, sui titoli, quindi era giusto anche vedere le aperture dei giornali di oggi. Allora, ma insomma, intanto sulla questione su Stoccolma, cominciamo da Stoccolma, perché la Svezia, che paese è la Svezia? Un paese, dicevamo, accogliente, è stato colpito per questo o è semplicemente un modello d'accoglienza che sta in qualche modo arrivando a un limite, ed è la tesi di giornalista del Corriere Alessandra Coppola, che commenta quelle tensioni nel paese, modello di accoglienza, così si è dissolta la bolla svedese. Anche a Stoccolma è successo e la bolla svedese si è dissolta, l'aveva maldestramente predetto il presidente Donald Trump lo scorso febbraio in una gaffe che adesso prende una intonazione sinistra, evocando un attentato che ancora non c'era stato, ma che poi paradossalmente, bene sì, si è realizzato. Chi se la sarebbe aspettato un attentato in Svezia? Qualcuno in realtà se l'aspettava, perché i bollettini dell'ISIS l'avevano minacciato, ma pure perché in questi anni di emergenze migranti e xenofobe crescenti la socialdemocrazia scandinava era stata sottoposta a pressioni al limite della rottura. Ecco qua il punto: una lunga solida tradizione di accoglienza dalla seconda guerra mondiale in poi, incoraggiata dal modello Olof Palme, lo storico premier svedese. Gli ebrei danesi in fuga dai nazisti vanno in Svezia, i cileni perseguitati da Pinochet vanno in Svezia, gli iraniani dopo Khomeini vanno in Svezia, i profughi delle guerre balcaniche vanno pure loro in Svezia, infine adesso l'ondata dei siriani, tutti in Svezia. Però l'ultima crisi è imponente: 190.000 richieste di protezione accolte, che corrispondono al 2% degli svedesi. Questi sono i numeri dell'accoglienza dei profughi siriani, a parte la Svezia, quasi 200.000 persone, una popolazione limitata, che corrisponde appunto al 2%, lo standard d'eccellenza con sussidi, tutor, corsi di lingua, tutto viene rivisto al ribasso, l'asilo permanente sostituito con un visto di 3 anni e via andare. Succede che un ragazzo armato di spada fa irruzione in una scuola di immigrati a Trollhättan, uccide 2 persone. E poi i notiziari dal 2015 in poi, con notizie di questo genere, in mezzo a tanti disastri, però un dato è positivo, sentite qua, la spesa per l'accoglienza ha incoraggiato i consumi, spingendo l'economia svedese. In molti però a Stoccolma non ci credono più, anche se la socialdemocrazia svedese forse può reggere. Traffico, ci fermiamo e torniamo tra pochissimo. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, eccoci qua di nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E allora, sempre sulla questione dell'attentato a Stoccolma, chi è l'uomo ricercato, chi è l'uomo arrestato? Sui media svedesi, scrive Repubblica, viene diffuso il video di un uomo dove appare un uomo che indossa una felpa, la testa coperta dal cappuccio, una felpa verde, potrebbe essere il killer del camion, un camion sottratto ad una ditta che trasporta birre nei ristoranti di Stoccolma. La polizia ferma una persona a nord della capitale svedese, sembra collegata alla strage, ma poi l'ha frenata. L'uomo è stato identificato, ma non si sa ancora se sia il killer del camion. La caccia all'uomo continua. Ancora un'intervista sulla stampa ad un esperto di deradicalizzazione svedese. È un fenomeno, insomma, in Italia di cui siamo abituati a sentir parlare abbastanza poco. Ci sono associazioni governative e non che lavorano su questo fenomeno, la prevenzione del terrorismo di matrice islamica e non solo. Il modello svedese è l'unico che funzioni davvero, dice questo signore. Sappiamo ancora pochissimi dettagli su quanto è successo a Drottninggatan, cioè il luogo della strage di Stoccolma, ma una cosa è certa: contro l'autoradicalizzazione l'unica arma a nostra disposizione è la prevenzione. Più lasciamo che soggetti a rischio si isolino, maggiore sarà la probabilità che scelgano la violenza e che si facciano influenzare indirettamente da ideologie forti. Cioè, in Svezia si lavora su questo fronte, sul fronte della prevenzione di soggetti potenzialmente radicalizzabili, che potrebbero sposare le tesi del terrorismo. Qualcuno potrà pensare e dire: ma chi si lancia con un camion contro la folla, chi compie gesti folli, scusate il gioco di parole, come questi, che speranze ha lui, ma soprattutto noi, di recuperarlo? Zero, forse, zero spaccato. Possibile che sia così, però dobbiamo sempre anche domandarci tutto l'insieme, quell'intorno, il brodo di cultura che c'è attorno anche al singolo attentatore, da cui poi potrebbe crearsi una catena per un secondo possibile attentatore e via dicendo. Cioè, su questo brodo di cultura bisogna poter intervenire, disinnescare alcune di queste mine, anche se se ne riesce a disinnescare una, è un attentato in meno, e quindi è un risultato positivo. Su questo lavora la Svezia, dice ancora questo signore presidente dell'associazione Exit di Stoccolma. La Svezia con la Danimarca è stato tra i primi paesi a costituire un coordinamento nazionale di associazioni, forze dell'ordine, rappresentanti delle amministrazioni locali, focalizzate tutte su un unico obiettivo: prevenire per quanto possibile che l'insoddisfazione e l'isolamento dei singoli individui si trasformi in estremismo violento. Intercettare queste persone prima che si radicalizzino è la vera sfida e l'unica arma che abbiamo a disposizione. E anche questo è un punto di vista, come no. Andiamo però sulla commenti, le analisi per quanto riguarda invece la situazione in Siria, e vediamo, abbiamo letto i titoli, vediamo il Corriere, che anzi cominciamo con Repubblica, che ha una carrellata di punti di vista interessanti di esperti americani su quello che cosa può accadere. Intanto lo schieramento dei paesi a livello internazionale tra chi è favorevole al raid contro la Siria e chi è contrario, si fa prima leggere i contrari: la Russia, la Siria stessa ovviamente, perché Assad è stato, ha subito questo raid, quindi la Russia, l'Iran, la Cina e l'Indonesia. Tutti gli altri paesi che si sono espressi hanno fatto dichiarazioni di sostegno a Trump: il Canada, la Francia, il Regno Unito, la Germania, l'Italia, la Spagna, la Polonia, la Turchia, Israele, la Giordania, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda. Questo tanto per fare un po' di chiarezza. Poi l'America cambia strategia rispetto al passato. Si è detto che Trump ha cambiato. Sì, certo, ha cambiato strategia, perché aveva detto che non sarebbe intervenuto. Ma Marina Ottaway, esperta di Medio Oriente del Wilson Center, invita alla calma e dice: finora l'attacco non lascia intravedere un cambio di strategia americana. È stato deciso in un momento di disgusto per Assad, gestito dai generali che hanno scelto di effettuare un attacco contenuto. Ma non significa che la Casa Bianca voglia un cambio di strategia in Medio Oriente, anche perché in questo caso dovrebbe cercare l'assenso del Congresso. E qui i punti, cioè deve cercare il voto del Congresso, che potrebbe non esserci. Di certo è un cambio rispetto a Obama, che si era fidato della mediazione russa per eliminare l'arsenale chimico siriano. La strage di martedì ha dimostrato che Assad aveva mentito e istintivamente Trump ha scelto di reagire. Però non c'è un cambio di strategia, secondo questa esperta. Altro punto: c'è il rischio che questa cosa, questo raid contro Assad, che ha contro di sé l'ISIS, rafforzi lo Stato islamico? Questa è una domanda legittima. Questo attacco non rafforzerà lo Stato islamico, anzi, risponde il vicepresidente dell'Istituto per il Medio Oriente di Harvard. Con questa, Paul Salem, con questa mossa gli Stati Uniti acquisiscono maggiore forza nel negoziato sulla Siria e sono maggiormente in grado di contrastare la Russia e l'Iran, facilitando la ricerca di una soluzione. E inoltre l'attacco priva l'ISIS di una fortissima arma di propaganda. Per anni gli estremisti, l'ISIS, hanno detto che i civili in Siria, sunniti, morivano perché gli Stati Uniti li avevano abbandonati e avevano sfruttato questo argomento per reclutare aspiranti terroristi. Ora questo non possono più dirlo, non possono più farlo, e questa sarebbe un'arma a favore della lotta all'ISIS. Che altro ancora su questo versante? Beh, insomma, ci sarebbero altri commenti. Guido Olimpio sul Corriere: il rischio serio del pantano dopo l'azione muscolare, il problema da sempre viene dopo. Valeva ieri per Bush in Iraq, vale oggi per Trump e Putin in Siria. Usi i muscoli, ma se non hai soluzioni politiche fattibili, rischi il pantano. Siamo quasi però in chiusura, e allora voglio anche vedere se c'è qualche altra notizia. E intanto vi segnalo un commento in prima pagina sul Sole 24 Ore, che titola: arriva la rottamazione delle liti con il fisco, rottamazione delle liti. mediazioni per i contenuti fino a 50.000 euro, nuova stretta sulle compensazioni di crediti e debiti tributari e una spinta in più ai pignoramenti. Sono alcune delle ultime misure messe a punto dai tecnici del MEF, il Ministero dell'Economia, per la manovrina correttiva da 3,4 miliardi di euro chiesta da Bruxelles. E poi il commento, dicevamo, la lezione di Keynes: investire, non dissipare, l'intervento pubblico. Il commento di Pierluigi Ciocca, che mette in evidenza come in questi anni, non c'è tempo per leggere, ve lo dico io rapidamente, l'investimento pubblico in Italia sia crollato del 28% dal 2007 ad oggi, e mettendo a rischio, insomma, tutto, la domanda, l'economia, la produzione, l'occupazione. Se i 2 punti di PIL rivolti dal governo Renzi ai trasferimenti e sgravi alle famiglie e imprese fossero stati investiti, investimenti pubblici nel territorio, nella sicurezza idrogeologica, eccetera, eccetera, l'aumento del PIL sarebbe risultato più che doppio rispetto al deludente 1% l'anno registrato dopo l'ultima recessione. È un punto di vista importante. Ci fermiamo qua, però c'è il giornale radio. Ci ritroviamo subito dopo con Si può fare. Ciao, a più tardi. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. OneExpress.it. Pallet Network italiano che viaggia in Europa vi presenta Si può fare. Si può fare, cronache da un paese migliore. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. Eccoci qua, 8:18 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Carlo Gabardini. Ah, intanto ci sono notizie in Svezia, perché è stato arrestato un secondo uomo nell'ambito delle indagini sull'attentato avvenuto ieri a Stoccolma. Dunque la polizia sembra che sia riuscita a mettere le mani sull'attentatore. È stato arrestato a 40 km a nord di Stoccolma. Notizia flash di pochi secondi fa. E noi durante la puntata andremo anche a Stoccolma a vedere come ci si risveglia il giorno dopo una scioccante attentato come quello di ieri. 800 24 00 24, cari ascoltatori, siamo qua. Carlo, Milano Monterosa, sole oggi, mi sembra una bella giornata. Era freschino, ma perché era presto e... Sì, è l'orario mattutino. Esatto. E allora, cari ascoltatori, vogliamo stare insieme a voi anche questa mattina. Tra poco parleremo di un tema caldissimo, furbetti del cartellino, perché forse abbiamo trovato una soluzione. L'uscita a Genova, vediamo se ci sono buone notizie, speriamo, così le annuncia l'amministrazione comunale della città. E poi vogliamo stare insieme a voi anche per giocare con voi questa mattina. Partiamo da questa notizia. Scusami, stavo dicendo, abbiamo anche un pastore, perché poi sentiremo, sì, anche un pastore, scusami. Ma non un pastore nel senso delle anime, che cura le nostre anime. No, giusto, hai ragione, perdonami. Un altro genere di pastore, un ospite originale. Allora, cari ascoltatori, come sopportate voi lo stress in generale, lo stress da lavoro, se siete responsabili in un ufficio, ma anche se siete responsabili solo di quello che fate nel vostro ufficio, ma anche lo stress da cattive notizie. Esatto, che è quello di cui ci occupiamo noi, quotidianamente. Sì, e che in questi giorni, insomma, è molto dura. Ha ricevuto un rincaro, una bella dose, perché c'è una ricerca del Center for Financial Research americano che ha studiato le reazioni degli amministratori delegati di addirittura 1500 grandi aziende d'America sotto stress e soprattutto alle prese con la maratona. Cioè hanno incrociato i dati, e questo che è bellissimo. E tra l'altro incrociano i dati non semplicemente di chi partecipa alle 15 maratone più importanti, ma di coloro che tagliano il traguardo. Quindi non semplicemente le maratonette, ma quelli anche allenati bene, che effettivamente arrivano. poi arrivano fino in fondo. Se arrivati, erano il 4%, cioè dei grandi amministratori dell'azienda americana, erano il 4% che avevano partecipato ed erano arrivati fin in fondo alla maratona, e adesso siamo al 6%. Quindi... diciamo, se vuoi diventare un grande amministratore di una grande azienda americana, devi farti una maratona, possibilmente vincerla, ma sicuramente arrivare fino al traguardo. E comunque fisici allenati sopportano meglio lo stress dal lavoro, dispongono di più riserve di energia, sono più efficienti e rendono meglio. E voi, cari ascoltatori, come frate fronte voi al vostro distress? Chiamateci allo 00240024. Che trucchi usate oltre alle maratone, wow, oltre allo sport, e che trucchi usate per resistere allo stress da notizie terribili, che è uno degli stress dei quali siamo più attaccati. 1, 2, 3, 4. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. Parliamo di lavoro, lavoro in comune, lavoro dei dipendenti pubblici. Se ne parla normalmente, spesso, quando qualcuno viene beccato a timbrare il cartellino e poi appunto andare a giocare a tennis o a fare la spesa. Ma è sempre per lo stress magari? Forse per quello, però lo stress aumenta anche a causa di leggi più severe, maggiori controlli che stanno scattando in questo periodo, rendendo la vita del dipendente pubblico più complessa, forse più impegnativa, perché fare i furbetti il cartellino è più difficile che in passato. Questo bisogna dirlo, lo dimostrerebbe in particolare, forse, pare, sembra, prendiamolo con le molle, tutte quelle che volete, il progetto che stanno sperimentando a Genova in questi ultimi 6 mesi, controlli e risultati straordinari, meno assenteisti, meno di tutto, meno fannulloni, meno provvedimenti disciplinari, vero l'assessore Isabella Lanzone, assessore al personale di Genova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. È così? Ma guardi, devo dire che il tessuto su cui lavoro io è un tessuto sostanzialmente sano, per cui tutti i controlli che giusto abbiamo fatto hanno... Però a volte una mela marcia positivo serve, esatto, come basta a inquinare tutto l'ambiente, esatto, o anche solo a creare un'immagine magari più negativa ancora di quello che è, però insomma bisogna eliminarle queste situazioni negative. Assolutamente, infatti l'abbiamo fatto anche per questo, nel senso che i controlli che facciamo sono controlli, diciamo, che abbiamo cercato di regolarizzare, sistematizzare un po' di più, e sono controlli che i dirigenti pubblici già dovrebbero fare. Certo, in realtà dove magari i dipendenti sono 100 per ogni dirigente è un po' più complicato. Però approfittando del fatto che effettivamente sono stati trovati degli assenteisti, ci sono stati degli episodi negativi che sono stati prontamente puniti da parte dell'amministrazione, perché nel corso dei nostri 5 anni abbiamo licenziato 18 licenziamenti in 5 anni, giusto? Persone. Esatto, 18 persone di cui ci sono arrivate segnalazioni, per cui ci sono state indagini da parte della polizia e magistratura, dalla quale siamo riusciti a farci dare gli atti prima ancora che iniziasse il processo, per cui in maniera tempestiva siamo riusciti a approfittare, diciamo, delle possibilità che la normativa ci dava, e ancora prima di andare in processo e vedere se erano condannati o non condannati abbiamo riscontrato che effettivamente gli episodi gravi c'erano e siamo intervenuti con licenziamenti. Questo però riguarda il passato, esatto, no? Quello che ci sembra più interessante è gli ultimi 6 mesi, i dati che avete diffuso, esatto, poco tempo fa, che le cose sono cambiate. Esatto, diciamo, non posso dire che le cose siano cambiate, perché secondo me con un po' più magari di attenzione, nel senso che magari il caffè che si andava a prendere prima ci si pensa due volte prima di andarlo a prendere, ma io non posso dire che siano cambiati a seguito dei nostri controlli. Semplicemente abbiamo cercato di far capire che il lavoro va preso seriamente a una platea che già lo sapeva, per cui la buona notizia è il fatto che abbiamo fatto controlli sotto 100 dipendenti, li abbiamo regolarizzati ogni 6 mesi, li faremo, però per ora gli esiti sono stati tutti positivi. E a dimostrazione del fatto che comunque il sistema gli anticorpi ce l'ha, nel senso che i sì. casi di assenteismo, la cosa secondo me che bisogna fare è non chiudere gli occhi quando ci sono gli episodi gravi, ed è quello che abbiamo fatto noi, e facendo questo noi non abbiamo avuto i dipendenti contro, non abbiamo avuto i sindacati contro, abbiamo avuto tutti dalla nostra parte, per cui secondo me un'amministrazione che è attenta da questo punto di vista, sì. che vede un comportamento non regolare... No, ma è chiaro, però non c'è niente di male nel dire che i controlli funzionano, no? Che servono come... disincentivo a cioè comportarsi più correttamente da parte di quelle persone, poche forse, una minoranza, che avrebbero avuto intenzione di comportarsi scorrettamente. No, però in realtà la cosa che ci chiediamo è un po' questa, nel senso ha la sensazione che in realtà le mele marce siano una piccola percentuale, e questo sarebbe sì, una buona notizia, è questo che devo evidenziare, perché, oppure no, mi scusi, oppure pensa che siccome ci sono questi controlli tutti si sono messi in regola e quindi ci sono molto meno persone che sgarrano, ma a causa dei controlli. Esatto, io penso che la serietà ci debba essere anche nel controllare, per cui sia una cosa che deve fare il privato come deve fare il pubblico, per cui sia una cosa sacrosanta, utile, e un messaggio che va dato proprio a vantaggio delle persone che anche senza controlli si comporterebbero in maniera abbastanza regolare, per cui probabilmente su una minima parte che nel senso era più flessibile nell'approccio o meno ligia, hanno avuto un effetto. Devo dire che non vorrei che si percepisse il tessuto in cui viviamo, almeno il mio, quello che conosco io, come un tessuto che avesse bisogno rispetto agli altri di controlli. Sì. No, ma questo lasciamolo ai genovesi e non genovesi di giudicare, ognuno come ritiene essere proprio diciamo rapporto con la pubblica amministrazione. Non è questo, non è l'analisi su questo che volevamo fare, però volevamo stare proprio sulla notizia, anche per capire meglio, siccome, come dice il mio amico Enrico Pagliarini, il diavolo si annida nei dettagli. Ci spiega come li fate questi controlli, nel senso proprio chi li fa, che tipo di controlli vengono fatti, così gli ascoltatori possono capire quanto certo. possono essere serviti o meno. Certo, sì, si possono anche diffondere buone pratiche, ecco, da questo punto esatto. di vista. Il diciamo ogni sei mesi abbiamo dato input ai dirigenti di procedere a controlli, diciamo, a loro discrezione. Abbiamo fatto un elenco di possibili, possono essere controlli generalizzati a un certo giorno, a una certa ora, a sorpresa, sui dipendenti per vedere chi è la scrivania, chi non è. Questi sarebbero quelli a tombola che la stampa ha definito? Quelli generalizzati, okay. per cui tendenzialmente su tutti i dipendenti di un servizio, sì. oppure ci possono essere dei sorteggi, per cui... Quelli a tombola, i famosi esatto, a tombola. Sì. Negli uffici, le ripeto, parliamo di uffici che magari vanno da 100 a 300 persone, per cui è ovvio che è faticoso e lungo anche è una bella tombolata. Una bella tombolata. Non c'è proprio quel clima di allegria che c'è normalmente a Natale, ma insomma non importa, questo è un effetto secondario. Senta, chi fa i controlli? Chi mi verrebbe da dire chi controlla i controllori? Perché anche questo è un tema, cioè come evitare che un controllore possa chiudere un occhio, magari perché quello è un amico. O magari perché lui a sua volta ha qualcosa da nascondere. Guardi, i controlli li fanno tutti i dirigenti, e sui dirigenti li fanno i direttori, per cui c'è tutto un sistema di controllo, anche di controllori. E sui direttori? Sui direttori l'assessore direttamente forse. Abbiamo tutta una filiera gerarchica, per cui praticamente sì. tutti hanno un capo fino al direttore. Mi scusi, volevo solamente sottolineare che mi sembra importante che i controlli riguardano anche i dirigenti. Ma assolutamente, anche perché oggettivamente, nel senso, la qualità buona e meno buona è a tutti i livelli, certo. e voglio dire la dovizia, anche l'attaccamento al lavoro e l'attaccamento alla cosa pubblica a tutti i livelli, per cui vanno sensibilizzati tutti. Dopodiché è ovvio che lo stesso dirigente, che è una persona che diciamo non c'è mai rispetto a una persona che c'è, ha tutto l'interesse a farla emergere, anche per far lavorare, per continuare a far lavorare bene di più coloro che lavorano. Siamo ormai in una condizione nella pubblica amministrazione in cui non possiamo permetterci più che certo. tanto di lavorare poco, solo per far dirle un numero: quando ho iniziato io a fare l'assessore, i dipendenti del comune erano 6.100, adesso sono 5.200, in 5 anni sono diminuiti di 900 unità, e siamo riusciti con molta fatica mantenere servizi invariati. Ecco, questo è un altro punto importante, no, Assessore? Perché tenere le persone in ufficio, evitare i casi di assenteismo, evitare che uno timbri il cartellino e va a fare la spesa, questo è, come dire, il contenimento è un risultato importante, fondamentale, ma poi quello che conta per il cittadino è l'efficienza del servizio, anche, diciamolo, la gentilezza di chi lavora al famoso sportello. Da questo punto di vista, i controlli, come stiamo messi? C'è qualcuno che controlla anche questo? Immaginiamo naturalmente di sì, ma glielo voglio chiedere perché credo che faccia parte integrante di tutta questa... Mm. Guardi, i controlli stanno tutti al dirigente. È ovvio che nell'amministrazione, come in tutte le aziende, ci sono persone più performanti o più predisposte, diciamo, all'esterno, e persone che lo sono meno, ma questo, diciamo, anche per la funzione che hanno avuto gli enti pubblici nei secoli di dare una possibilità di occupazione un po' a tutta la popolazione. Per cui da questo punto di vista noi crediamo fortemente che sensibilizzare le persone, premiare le persone che lavorano e punire quelli che non lavorano sia comunque una, diciamo, un sentimento di giustizia interno che agevola anche le persone nel lavorare meglio, nel lavorare di più, nel crederci di più. A lavorare per il pubblico, che è la cosa più bella del mondo, nel senso che lavorare per il profitto privato ti può dare soddisfazione, però lavorare per il pubblico e per il bene degli altri, le assicuro che è una cosa che riempie veramente la vita, e la maggior parte dei nostri dipendenti lo sanno e lo trasmettono, l'attaccamento all'ente, appunto, la voglia di ecco, lo dimostra. Fermo restando questo, che lei ha ripetuto più volte, questa difesa anche orgogliosa del ruolo della pubblica amministrazione, lei in quanto assessore al personale del Comune di Genova, le voglio chiedere di dare un voto al titolo scelto da Repubblica alla fine di questa intervista. Il giornalista aveva scritto: Comune, i controlli antifurbetti cancellano assenteismo e ritardi. A me sembra che sia abbastanza calzante, fermo restando quello che diceva lei, che nella maggior parte dei casi questi controlli non servono perché i dipendenti hanno già questo senso di responsabilità. Però sappiamo che ci sono le mele marce. Che titolo dà? Che voto dà questo titolo? I controlli cancellano assenteismo e ritardi? Da 0 a 10. Diciamo che gli do un 6 perché non ha colto appieno. Purtroppo è quello che l'opinione pubblica diciamo tende a pensare dei dipendenti pubblici. Lei l'ha detto, io sono assessore al personale, le persone le vedo lavorare ogni giorno. Da questo punto di vista, secondo vabbè, me dovremmo... comunque, si può giustamente si lei può è severissima però l'assessore. Ha dato un 6. Però sono contento di questa severità. Va bene. perché guardi, nel senso, dovremmo lavorare di più tutti per lodare i bravi e invece non avere pietà per quelli che sono meno bravi. A questo punto tutti avremo più voglia di lavorare, perché anche i dipendenti pubblici, le assicuro, sono veramente vessati in questo periodo e bisogna tenerne conto, perché lavorano per noi, per cui voglio dire, se lavorano meglio loro, viviamo meglio anche noi. Certo, temo che un giornalista adesso titolerà con il suo nome pietà zero dopo quello che ha detto, ma comunque noi non ne siamo responsabili. No, l'articolo però, lei sa che i titoli sono scritti diversi dall'articolo, però devo giusto. Dire che l'articolo è calzante, assolutamente. Va bene, perfetto. Grazie mille, Assessore Lanzone, e questa era la storia dal Comune di Genova: controlli su 800 indipendenti in 6 mesi e quindi nessun caso grave che giustificasse il ricorso allo strumento più drastico, che è il licenziamento, quando nei 5 anni precedenti ci sono stati 18 casi, quindi, come dire, i controlli servono e funzionano. Stiamo ai fatti. Cari ascoltatori, vi ha convinto in qualche modo questa buona pratica del Comune di Genova? Chiamateci all'800 24 00 24, soprattutto se siete di Genova e avete qualcosa da raccontare, ma in generale se avete sentito questa intervista e siete in grado di dare un vostro commento ragionato, però, perché quando si parla di dipendenti pubblici è facile scatenare la pancia. Vediamo cosa arriva ai microfoni di Radio 24 questa mattina. Poi vi aspettiamo anche per raccontarci come voi fate fronte allo stress, visto che secondo questa ricerca americana gli amministratori delegati delle grandi aziende reagiscono meglio allo stress se fanno sport, in particolare se corrono molto. E vincono. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, quando sono le 8 e 40 minuti, cari ascoltatori, è il momento di aprire i microfoni col numero verde 800 24 00 24. Abbiamo Francesco che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Vai Francesco. Io volevo commentare un po' quello che si sta facendo a Genova sul controllo, sui meccanismi di controllo che hanno adottato per verificare se uno lavora o meno. Per i dipendenti pubblici, prego. Sì. Dipendenti pubblici. Secondo me la ricetta che hanno usato a Genova è sbagliata. È sbagliata dal punto di vista proprio concettuale, nel senso che secondo me nella pubblica amministrazione quello che manca è la definizione di obiettivi chiari, semplici e misurabili. E solo così il controllo poi, se viene effettuato sui risultati conseguiti, e allora motiva il personale non solo a stare negli uffici, perché quello è comunque un atto dovuto, ma soprattutto a lavorare e a produrre servizi per i cittadini. No, è giusto quello che lei dice, Francesco, però chiariamo intanto che l'ultima domanda che abbiamo fatto all'assessore è questo: chi misura l'efficienza, il funzionamento degli uffici? E lei ha risposto che c'è una misurazione anche di questo per obiettivi che riguarda i dirigenti, quindi in parte contraddice quello che diceva lei. Però qui stavamo a un'altra cosa, cioè stavamo all'obbligo, obbligatorietà del rispetto delle regole di fondo, perché questi sono i casi che hanno poi i casi di cronaca che hanno giustamente scatenato l'opinione pubblica, perché possiamo parlare di efficienza, di gentilezza dei dipendenti pubblici che stanno allo sportello, ma se uno arriva, mi timba il cartellino e mi va a fare la spesa, a giocare a tennis, passa la giornata a fare un secondo lavoro, capisce che qua c'è un problema. Soprattutto iniziamo ad avere qualcuno dietro lo sportello, poi ci occupiamo anche di farlo lavorare, cioè, ha capito? Io ho capito, però il discorso del rispetto delle regole è un atto dovuto, cioè è ovvio che la buona pratica, diciamo, di cui abbiamo parlato stamattina a Genova sta su quel fronte lì, cioè sta sull'atto dovuto, se si sta o meno alle regole. Poi c'è l'altro problema, come dice lei, importante, che è quello di far funzionare gli uffici. Lei dice che bisogna invertire l'ordine, partire dagli obiettivi e poi arrivare anche alle regole. Può darsi. Come si fa nel privato. Può darsi che abbia ragione lei, Francesco. Vuol concludere? Sì, perché nella pubblica amministrazione il problema qual è? È che nessuno capisce spesso e volentieri cosa deve fare, che lavoro deve fare, quello è il punto. Quello crea un clima di confusione generale. Sì, che non giustifica poi che uno vada a fare la spesa in un orario di lavoro. Grazie Francesco, chiaro però, molto chiaro la sua precisazione. Mi sembra anche condivisibile e ragionevole. Pier Carlo dalla provincia di Milano, benvenuto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo intervenire sul tema dello stress. Sì, come fai fronte tu allo stress? Ce l'hai una tua ricetta? Io la mia ricetta ovviamente è personale, nel senso che a me con me funziona, è come un rubinetto, quando lo apro lo stress scivola via. Vogliamo conoscere questo rubinetto? Hai detto nulla, vai, com'è? No, infatti è molto semplice in realtà. Io ho creato da circa una decina d'anni e finanzio e gestisco insieme a mia moglie un'oasi felina. Un'oasi felina? Sì, un'oasi felina in provincia di Pavia. Sono circa 30 amici che noi, diciamo, dei quali ci occupiamo con tutto l'amore e la passione che ovviamente un'attività del genere deve necessariamente comportare. Ma sono 30 gatti quindi? Sì, una trentina di gatti. Mi chiedevo se nei felini c'erano anche delle tigri, dei puma o altri. Guarda, le dico in tutta onestà, mia moglie sarebbe anche disponibile, ma io di tigre ne ho già una e quindi francamente mi va. Le ho alzato la palla e lei l'ha schiacciata, giustamente, molto giusto. Questa oasi felina con 30 gatti, in che senso un'oasi? Cioè è un terreno... È un terreno, è un'azienda, è una casa colonica che era sede di un'azienda agricola di famiglia, noi l'abbiamo completamente ristrutturata. Ma è anche casa vostra o è adibita solo a oasi felina? No, è anche casa chiaramente abitabile, ma è, come dire, è una dopo la ristrutturazione abbiamo creato proprio delle zone dedicate a questi. È stupendo, poi in una casa mi sembra è gli Aristogatti. gli aristocratici. Ma quindi, quindi per far fronte allo stress, tu e tua moglie andate in questa vostra casa colonica dove avete un'oasi felina di 30 gatti e beh, insomma, ci credo che riuscite, avrete anche molto da fare a rilassarvi, mi immagino, la casa colonica in campagna siamo naturalmente, giusto? Molto bello, molto bello, un po'. Ma aprite le porte anche agli amici stressati o fate tutto da soli? Guardi, c'è molta, ho molti amici che gradiscono l'invito quando vengono, anche oggi ci sono delle persone che vengono e quando se ne vanno dicono tutti che insomma vanno via sollevati. Ecco, possiamo fare un mini appello, in che zona siete? Non voglio l'indirizzo esatto, ma in che zona siete? No, no. Siamo nella zona, beh, in Lomellina, a ridosso della provincia di Alessandria. Ecco, in Lomellina, perfetto. Sappiate, ci sono 30 gatti a disposizione, credo che 4, 5, 6, 7 amici per volta possiate tranquillamente ospitarli, 7, 8 gatti per uno. Io vengo a trovarli, di sicuro, perché ho il mio compagno che insiste, che vuole che prendiamo un gatto, proprio per questo motivo che i gatti in realtà rilassano moltissimo. Potresti andare a fare l'open day dal nostro amico esatto, Piercarlo. Ci vado volentierissimo. Grazie. Complimenti, in bocca al lupo. 800 24 00 24. Voi come fate fronte al vostro stress? Anche quello da notizie. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Un tempo mi dice mia nonna, non c'erano tanti motori, nessuno faceva colonna, le strade figliavano fiori. S'andava in città tutti a piedi, qualcuno con la bicicletta. Lo so, forse tu non ci credi, ma nessuno viveva in fretta. Questo è il sound della città pulita, dove il sole ci scalda la vita. Resta sempre la solita domanda, decide bene o no chi comanda. Le città pulite sono quelle dell'Austria, tra poco un bel si può fare nel mondo. Prima però qualche messaggio al 349-238-6666. Una ascoltatrice dice: sono stata sanzionata io per aver fatto notare gli errori di italiano al mio dirigente, mentre i furbetti del cartellino non vengono toccati. Lesa maestà. Sugli errori di italiano è sempre difficile, eh? Nessuno se la prende bene. Ma addirittura bene. Sanzionata per aver fatto notare gli errori di italiano mi sembra molto grave. Sei sicura, ascoltatrice? Però c'è anche un bel messaggio che dice: io per combattere lo stress percorro 300 km alla settimana in bicicletta e funziona. Si chiama Carlo, sono invidiosissimo. Io 300 km alla settimana credo di non averli mai fatti in tutta la mia vita. Giusto. E volevo anche ricordare un'altra cosa agli nostri ascoltatori, ovviamente alle telefonate nelle quali ci spiegate come combattete voi lo stress, anche lo stress da cattive notizie. La telefonata migliore verrà premiata con un libro. Di solito abbiamo un lungo elenco di libri, non diciamo il titolo perché addirittura ci pecchiamo poi dopo di cercare un libro in linea con la storia raccontata. Per esempio, se dovesse vincere Piercarlo, che combatte lo stress da 10 anni con un'oasi di gatti di 30 gatti, forse cercheremo un libro attinente, quindi non lo so, Il gatto con gli stivali per esempio. O il gatto pardo, bravissimo, più bravo. Allora, chissà come si supera lo stress a Innsbruck in Austria. Diamo il buongiorno a Enzo Caldarola, un italiano che vive a Innsbruck. Ciao, buongiorno. Guten Morgen Alessio, Guten Morgen Carlo. Guten Morgen. Ah, vabbè, ma così. Vigestia. Ma così. Vabbè, io mi rialzo e ne vado, vi lascio ragazzi perché so che voi parlate il tedesco bene tra di voi. Sai, Enzo, non te l'aspettavi che sapessi anch'io il tedesco, eh? Vediamo. Sai Enzo, perché fare una conversazione un po' più lunga. Potete farla, vi do qualche secondo dopo per farla, per così per far uscire matti gli ascoltatori, perché Carlo ha fatto la scuola tedesca, quindi adesso poi metteremo alla prova. Oddio, sono preoccupatissimo. Quanto sa ancora il tedesco Carlo Gabardini? Ich kann kein Deutsch mehr, ich kann kein Deutsch mehr sprechen. Va bene, andiamo. Ho capito solo gut. Mi ha detto che parlo bene tedesco, quindi siamo a cavallo. Allora, carissimo Enzo, tu lavori in Austria, sei lì da alcuni anni, credo. Da quanti anni sei in Austria? Sono ormai più di 7. Vieni da Torino, si sente anche da come hai detto 7, perché hai detto 7, è il classico piemontese, cortese. Si sente l'accento torinese. Un pochino. Hai fondato... Perché ti dico la verità, sono 15 anni che vivo all'estero e... Alcuni mi dicono ogni tanto che ho un accento siciliano, quel periodo che avevo più amici siciliani. Sì. No, secondo me si sente proprio tranquillamente. Ma anche perché gli stranieri sanno poco dei nostri dialetti, quindi fanno un gran mischione di solito. Allora, però fatemi arrivare sulla notizia. Esatto. Tu hai fondato un portale, si chiama scappiamo.net, dedicato agli italiani in Austria. Questo è il modo in cui ti abbiamo conosciuto. Però ti vogliamo chiedere di commentare questa notizia, che è, diciamo, una svolta green in Austria, dove è stato recentemente, tra l'altro, eletto un presidente con una grossa impronta van der Bellen e ecologista. E con grossissime difficoltà, perché è quell'elezione che hanno fatto otto volte. Rifatta. Austria, targa verde e parcheggi gratis per le auto elettriche. Cioè si punta molto sulle auto elettriche con misure forti, draconiane. Enzo, ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, diciamo che l'impronta che è stata adottata adesso in Austria non è proprio... Diciamo, non seguono le impronte di Trump che torna al carbone. Certo, c'è un'altra direzione, sì. Esatto, col Partito dei Verdi. E infatti, se avete letto così, non solo danno i 4.000 euro così di incentivo a chi vuole comprare un'auto. Esatto, questa è la prima misura, 4.000 euro a chi compra un'auto elettrica, esatto. 72 milioni di euro a disposizione complessivamente. Poi? Investimento, esatto. Ti tolgono anche il bollo, praticamente, che qua in Austria il bollo viene pagato subito tutto e non viene pagato annualmente. Anche voi pagate il bollo, perché pensiamo di essere solo noi italiani, cioè abbiamo questa mania di persecuzione, no? Lo paghiamo solo, invece lo pagate. Mi sembra un'ottima notizia anche la targa verde, mi sembra anche un'ottima notizia, di modo che si possa riconoscere coloro che in realtà hanno una macchina green. In modo che possano parcheggiare a gratis sulle strisce blu, giusto? Bravissimo. La targa verde è stata praticamente proprio da inizio aprile, quindi sono qualche giorno che è stata, diciamo così, sì, messa. Ed non è nient'altro che una targa con la scritta, invece che i numeri in nero, praticamente sono scritti in verde. Cioè, una figata. Uno si sente, capito, già diverso se c'ha la targa verde. E poi andare a parcheggiare a gratis su tutte le strisce blu, mica poco. Sì. Nella maggior parte delle città austriache devono essere convenzionate con questa cosa qua. Comunque è una cosa che si andrà sempre più allargando. Sì, ancora non ovunque, tu dici, ma piano piano stiamo arrivando. Tu come vai al lavoro? Con auto elettrica o con auto a trazione tradizionale? Meglio, o senza auto? Inquinamento zero. Io vado in bicicletta al lavoro. Bravo. Da buon austriaco. Ma questo portale che tipo di persone vanno su questo portale, che si chiama Scappiamo, giusto? Un po' inquietante il titolo, È uno dei commenti che mi hanno fatto all'inizio, sì. Ma scappiamo, ma perché? Meglio una cosa un po' più positiva. In realtà non è scappiamo dall'Italia, ma è scappiamo in Austria. Quindi è positivo, no? Tutti in Austria. No, è che perché sembrava un invito, scappiamo, non siamo scappati. Comunque, noi dobbiamo salutarti, carissimo Enzo, da Innsbruck. Grazie per essere stato con noi. Auto elettriche a go-go in Austria. Questa era la notizia, ci risentiamo dopo il GR. Più tardi. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. A Vinitaly, Padiglione 3, trentodoc.com. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Welcome to the sunshine. Don't be afraid. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24. E questa che abbiamo appena ascoltato è Welcome to the Sunshine di Carrara. Mi pareva adesso in discoteca, esatto, sabato sera. Ma ti spiego come mai l'abbiamo messa, perché questo è un Si può fare che ci è stato inviato e consigliato da Claudio De Angeli, che via mail ci ha scritto: vediamo se si può fare di riascoltare un bel pezzo. Bravo. Di Italy Disco anni 80 su Radio 24. Si può fare, certo. Si può assolutamente fare. Questo è un modo originale per interpretare la nostra convocazione musicale. Esatto, perché ogni sabato e ogni domenica noi cerchiamo dei Si può fare in musica. Quindi se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori e ravvisati in una canzone il concetto di Si può fare secondo voi ben spiegato, allora vi chiediamo di inviarcela, di segnalarcela. Lo potete fare mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it oppure segnalarcela sui nostri social, su Facebook Si può fare /radio24 o su Twitter @sipuofare24 oppure sui nostri account personali. Il mio è @carlogabardini e c'è anche il mio @alemaurizzi. E allora, adesso, cari ascoltatori, vi chiediamo di stare con noi anche al numero verde 800 24 00 24. Siamo partiti questa mattina da Genova con la ricetta antifurbetti del cartellino del Comune di Genova, che ha fatto una serie di controlli a Campione, a Tombola, generalizzati, insomma, avete sentito dalle parole dell'assessore. In tutti i modi, che hanno prodotto risultati, sembra, soddisfacenti nella prevenzione dell'assenteismo sul luogo di lavoro. E quindi vi chiediamo all'800 24 00 24 se la ricetta dell'assessore al personale del Comune di Genova vi ha convinti. Tra poco sentiremo l'incredibile storia dei pastori brianzoli, già il, esatto, fatto che ci siano dei pastori in Brianza è una notizia, contro il cemento, i progetti di cemento in quella zona là, e sentiremo che storia incredibile è. E poi chiaramente vi chiediamo anche di chiamarci per dirci come fate fronte voi allo stress. Sono giorni stressanti anche per le terrificanti notizie che arrivano un po' da tutti gli angoli del pianeta. Sono anni, direi, terrificanti per quello che riguarda le notizie. Infatti Si può fare per questo, è un po' la sua funzione, ma anche lo stress in generale, lo stress da lavoro, lo stress da figli, lo stress da genitori, qualunque tipo di stress, come lo combattete. Siamo partiti dalla notizia che la maggior parte dei alti dirigenti, quindi evidentemente molto stressati americani, in realtà partecipa a delle maratone. E quindi supporta meglio lo stress proprio in virtù di questa grande attività fisica che viene fatta. Non è una grossissima novità. Andiamo a Stoccolma, vediamo come si sveglia la capitale svedese dopo la terribile giornata di ieri. È con noi una presenza amica, Jennifer Wegerup. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti voi. Buongiorno. È una giornalista, è una collega svedese che avrete forse sentito a tutti convocati, perché lei normalmente si occupa di sport, cioè di argomenti molto più divertenti. Jennifer, e ci piacerebbe parlare un po' di questo, ma ti vogliamo chiedere come va oggi. C'è molta confusione anche, ci sono state molte notizie su arresti di sospetti, la caccia all'attentatore. Quali sono le ultime notizie, Jennifer? Ma le ultime notizie sono quelle che è stato arrestato questo uomo che ha 39 anni, che sarebbe dall'Uzbekistan, che era in Svezia per lavorare, costruire case, eccetera. E lui sostiene che sia stato lui. Dicono ci sono anche tracce di sangue, di DNA nel camion. Adesso è tutto ancora da verificare. Sì, perché inizialmente sembrava invece ieri sera che non fosse soddisfacente questa spiegazione, che la polizia stesse cercando ancora altri responsabili. Invece stamattina la notizia è che insomma sarebbe lui, ecco, l'attentatore. Questo, no, che sta emergendo, Jennifer. Sì, esatto. Poi bisogna capire che si è agito da solo. O ci sono anche altri complici. Comunque ovviamente siamo tutti con tanto dolore, tanta rabbia, ma siamo anche, poi noi di natura siamo abbastanza calmi, come sapete, noi svedesi. E poi, certo, è una virtù che apprezziamo molto. Ieri sera è stato, anche ieri pomeriggio, bellissimo, perché siccome non c'erano i mezzi, noi non abbiamo tutti i motorini, gli scooter che ci sono per esempio in Italia. Abbiamo visto migliaia di persone che tornavano anche se a piedi, e molti hanno dato un passaggio a stranieri, i ristoranti hanno dato cibo gratis ai figli, i genitori non riuscivano a tornare a casa, insomma, tutti siamo stati insieme, la città... Ti dico la verità, grande solidarietà. Mi si è increspata un po' la pelle sulle braccia, perché sentire questo tipo di racconto è molto emozionante. Cioè, siccome non ci sono tanti motorini, magari auto private come in altre città, chiusa la metropolitana, chiusi i mezzi pubblici, vi siete ritrovati tutti a piedi ieri pomeriggio? Tutto, ci sono delle bellissime foto dei ponti famosi, per esempio il tramonto, gente che cammina tutti insieme, anche per una mano, e anche tantissime persone, anche io ho scritto su mio Facebook se posso dare un passaggio, se qualcuno è rimasto bloccato a Stoccolma perché non riesce a tornare a casa, perché tutti i treni erano fermi anche. Fatemi una chiamata, la mia casa è aperta, e così hanno fatto tantissime persone, anche i negozi elementari, appunto, hanno offerto cibo gratis. Insomma, c'è stata una grande solidarietà. Beh, una reazione molto bella. E poi la sera tutti a cena gratis nei ristoranti? No, forse gratis no. No, mi è venuta voglia di venire subito. Non lì. Esageriamo, che stiamo creando, se no adesso tutti che vanno a Stoccolma, che prendono apposta un treno per andare a Stoccolma e poi andare al ristorante gratis. E abbracciarsi con un po' di svedesi, che è sempre bello. Jennifer. No, sì, grazie. No, nel centro poi era tutto purtroppo chiuso, ovviamente, no? No, ma dico, molti figli, per esempio, sono tornati da casa, magari erano soli, perché i genitori erano rimasti bloccati nel centro di Stoccolma. Certo. Allora molti ristoranti hanno lanciato il messaggio, anche nei costi elementari, e i figli possono venire qua a mangiare intanto, oppure molte scuole hanno riaperto quello che da noi si chiama tempo libero, hanno detto chi vuole può rimanere fino anche a stanotte, noi insegnanti rimaniamo gratis a occuparci dei figli, insomma, cioè... Questa solidarietà. Molto bello, mi sembra una bellissima reazione e anche un bel segnale di unione tutti insieme. Grazie Jennifer, grazie per essere stata con noi. Grazie. Un grande abbraccio da parte nostra a tutti voi a Stoccolma e dintorni. Jennifer Wegerup, giornalista di Stoccolma. 800 24 00 24. Ci fermiamo per il traffico e poi vi aspettiamo, cari ascoltatori, tra pochissimo. OneExpress.it. Pallet Network italiano che viaggia in Europa vi presenta Si può fare. Si può fare, cronache da un paese migliore, perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, e no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà come si farà. E così la seconda storia che vi voglio raccontare è quella del pastore Serafino al mondo. Va bene, oggi va così. Vintage, dalla disco anni 80, l'Italy Disco. Celentano col pastore Serafino. Allora, perché la storia è questa: pastori contro il sindaco, agricoltori contro industriali, cementificatori contro fautori del recupero. È la storia di Biassono, siamo in provincia di Monza e Brianza, c'è un progetto di espansione edilizia gigantesco, contestato anche da alcuni pastori che non possono più fare la transumanza. E allora Andrea Galbusera, pastore brianzolo di Biassono, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Ciao Andrea, allora diamoci del tu tra conduttori radio e pastori, si fa così normalmente. È una vecchia abitudine. Che cos'è la transumanza? È una cosa che ho sentito dire secoli fa, la transumanza è bellissimo, cos'è? Ma la transumanza, diciamo che è una tradizione, in poche parole si parte con le greggi dagli alpeggi nel periodo estivo. Mm-hmm. E si scende nel periodo autunnale, pian piano si scende a svernare nelle pianure lombarde e di primavera si risale verso l'alpeggio. Quindi questo, adesso siete in fase di risalita? Sì, sì, nei prossimi giorni riparte la risalita verso l'alpeggio che terminerà il mese di giugno. Ci tengo a precisare, perdonami, che hai solo 28 anni, perché non so se è perché fai il pastore, ma in radio hai una voce che invece uno si immagina un vecchio pastore di 75 anni. Vecchio no, hai una voce di un uomo così giustifico maturo. Anche, e spiego come mai ti stiamo dando del tuo tranquillamente. No, ma non sembri un vecchio, Andrea, stai tranquillo, sennò poi si suicida e si butta in una rupe perché pensa di sembra... Assolutamente no. E vieni da una famiglia di pastori, ho anche letto, sì, giusto? Sì, quattro generazioni. Esattamente. Da quattro generazioni. La quindi mia non famiglia... è che ti sei improvvisato pastore, è una cosa che è di tradizione da quelle parti, lo ricordiamo perché uno si immagina anche sempre i pastori sardi, e invece in Monza Brianza esiste una tradizione di allevamento delle pecore, giusto? Esattamente, nel nord Italia viene allevata la pecora di razza bergamasca e la mia famiglia se ne occupa da quattro generazioni, è una cosa che si tramanda da padre in figlio o da nonno in nipote comunque. Perché il pastore puoi farlo solo se hai una gran passione, solo esclusivamente per quello. Certo, non è un lavoro, diciamo così, easy, tanto semplice, insomma. No. L'orario di lavoro, per esempio, è molto lungo? Sì, certo, una giornata può essere lunga anche 20 ore, diciamo. Dipende tutto dal benessere degli animali, se gli animali stanno bene tutto a posto o che è una giornata abbastanza tranquilla. Dopo, essendo transumante, ci sono anche le questioni meteorologiche, cioè nevica, piove. Certo. A tutte le condizioni ambientali possibili, certo, immaginabili. Certo. Ma veniamo a questo progetto di espansione edilizia che mette a rischio quest'ultimo, ma insomma è un po' tutto il costruito che c'è attorno a noi che naturalmente toglie spazio all'agricoltura, all'allevamento e in questo caso anche alla possibilità che voi possiate effettuare questa transumanza, cioè passare liberamente tra un terreno e l'altro. Perché c'è questo progetto edilizio viene contestato, Andrea? Ma viene contestato perché essenzialmente noi transumanti seguiamo delle vie, alcuni passaggi sono tra virgolette obbligatori, dopo se riesci a evitarli vengono evitati, ma alcuni sono proprio obbligatori e passare in un centro abitato con un gregge di pecore non è una cosa semplicissima, anche perché viene contestato da molti perché giustamente sporchi, ok, però la transumanza prevede, cioè posso capire la contestazione se il passaggio è effettuato tutti i giorni, ok, sono io il primo a dire no, così non va bene. Invece voi passate due volte all'anno in pratica. Ma essenzialmente da una via si passa solo una volta per creare meno disagio e sperando che i cittadini capiscano tra virgolette l'evento, diciamo. Ecco, ma se passasse questo progetto, no? Il rischio qual è? È che poi uno potrebbe dire, ma chi se ne frega della transumanza dei pastori, perché c'è anche qualcuno che magari ragiona così, è più importante un progetto di espansione edilizia, capannoni industriali, nuove residenze, a parte che noi diciamo sempre ai sindaci, prima di autorizzare nuove costruzioni, aree cementificabili, cercate nel vostro comune se c'è una zona da recuperare, perché ce ne sono tantissime, le vediamo tutti, capannoni, ex edifici, ex fabbriche. Tanto in questa zona direi che il problema è esattamente quello, nel senso che stiamo parlando di nuovi 160.000 metri quadrati appunto al confine con Lissone, quindi è una costruzione gigantesca e c'è anche chi dice ci sono un sacco di edifici sfitti, quindi non si capisce perché bisogna costruire altri 160.000 metri quadrati. Caro sindaco di Biasson, sei sicuro che non ci sia un'altra zona da recuperare per creare spazio per queste attività, per questi nuovi capannoni, per queste nuove residenze? Questo, no? Ma lo chiediamo anche a te, Andrea. Ci sono? Ci sono dei controsensi, ci sono dei capannoni abbandonati dove di fianco stanno costruendo dei capannoni nuovi, ci sono dei controsensi. Mi sento male, portatemi i sali perché sto per svenire, no, veramente. Avete sentito? Ci sono capannoni abbandonati a fianco dei quali si sta costruendo quelli nuovi. Come possiamo definire questa cosa? Io personalmente una follia la definisco. Andrea, sì, Galbusera, ci sei? Sì, dopo dobbiamo ricordare che la Monza Brianza è la seconda provincia più cementificata dopo la provincia di Cosenza o di Catania. Comunque sono sicuro che... È davanti a Napoli e davanti a Milano. Sì, per questo la Brianza. è stato fatto uno scempio del verde, lo posso certo, dire in questo modo. Senti, perché, ma diciamo, Andrea, ma la transumanza, cioè se voi non sì. potete, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma allevatele in un praticello e non rompete è l'ultimo praticello questo qua che stanno però, togliendo. Cioè, se non ma potete... No, essenzialmente perché ogni pastore transumante ha la propria via. Se te interrompi questa via, a sua volta blocchi anche le tradizioni, blocchi anche il passaggio, crei anche disagio alla popolazione, perché in queste zone verdi, io non so se avete presente quanta gente che porta i bambini, perché sì. alla fine la Brianza è conosciuta anche per la bellezza del suo verde. Se distruggiamo tutto questo verde, secondo me la Brianza... Ecco, ma tu Andrea, se pensi un po' al futuro, hai 28 anni, sei un ragazzo, sei giovanissimo, pensi che riuscirai ancora a fare il pastore in Brianza con la transumanza, come da tradizione, allevare queste pecore bergamasche e poter avere ancora del verde attorno a te, oppure perdi la speranza a un certo punto di fronte ad esempio a un progetto come questo del Comune di Biassono? Ma la speranza c'è sempre, però ogni volta che vedi questi piani ti demoralizzi sempre di più, e se continuiamo su questo di questo passo passa un po' la voglia, passa un po' anche la voglia, andrà a finire che per forza di interrompere questa tradizione. Ripeto, perché... noi non ce l'abbiamo con il settore dell'edilizia, con gli architetti, gli ingegneri, i cementificatori, i cementifici, assolutamente no. Però chiediamo che si sfruttino prima le zone abbandonate, si tirino giù i vecchi capannoni, si ricostruiscano, si ristrutturino. Insomma, il settore dell'edilizia può lavorare moltissimo, ma lo sanno benissimo anche gli operatori del settore, e sono loro i primi a dirlo, recuperando e non costruendo ex novo su terreni che ormai, insomma, si stenta a trovare suolo agricolo, soprattutto in una zona già molto cementificata come quella lì. Caro Andrea, adesso dove sei? Sei transumante? Sì, sono transumante, sono in Brianza, che sto risalendo piano piano. E quando... diciamo che sono nella Brianza del Nord adesso. Ah, e quando pensi di arrivare su all'alpeggio? Quanto tempo ci vuole? Ma l'attraversamento della città di Lecco è previsto verso la metà di maggio, per cui un mesetto ancora e poi ci siamo. Dai. Poi ci siete. Ma tra una tappa e l'altra che succede? Tu vai a casa tua o... No, il gregge non viene mai abbandonato, sono sempre qua a controllare il gregge perché non può essere mai abbandonato, 24 su 24. E quindi dormi per strada o dormi in dei campi? Rifugi? No, ha presente le roulotte che vede nei campi con la scritta pastore? Certo! Ecco, quelli sono quello i pastori transumanti. Quello sei tu. Senti, carissimo. Tranquillizzaci solo su una cosa, nel senso che con questo progetto sarà molto difficile effettuare la transumanza, ma però restano dei terreni dove voi potete far pascolare le pecore, o con questo progetto finisce proprio la vostra esistenza? No, ci sono ancora terreni, giusto, ci sono ancora terreni. Le spiego, durante il periodo invernale i terreni sono fermi, per cui possiamo transitare più o meno in tutti, tranne nei seminativi. Mentre adesso ci sono tutte le colture in atto, transiti nei terreni non coltivati o certo. non coltivati, per cui ci sono ancora terreni, però c'è ancora speranza, e noi speriamo soprattutto che a Biassono ci ripensino, perché ripetiamo, cari amici di Biassono, siete sicuri che non ci siano aziende, fabbriche, ex spazi da recuperare? Cominciateli lì, magari volete costruire questi nuovi 90.000 metri quadri, fateli, però 160.000 radete al suolo quegli altri vecchi inutilizzati, abbandonati, e in modo che si ricrei almeno lì del suolo verde per respirare, traspirare e far passare i transumanti. Andrea, in bocca al lupo al nostro pastore bergamasco. Ciao, grazie mille. In bocca al lupo per il futuro. Bocca al lupo a chi alleva pecore, forse no, non è il caso. Forse no. Però ormai c'è scappato. 800 24 00 24, cari ascoltatori. Anche questa volta, se vi ha convinto la lotta dei pastori e anche dell'opposizione, a dire la verità, in Comune a Biassono contro questo progetto, chiamateci. Siamo qua. A tra poco. Soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua a 9:33 minuti. Paolo da Bergamo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, per l'argomento trattato e invidia massima per il ragazzo Andrea, mi sembra, pastore, per la sua libertà. Volevo intervenire a proposito tra qualche pastori. Disagio, è libertà con qualche disagio perché ma è un collega? Disagio. È un collega però, lei? No, io faccio l'autista, scavaturista, però sono bello pressato e libertà ne ho poca, perciò lo invidio. Lo invidi. Certo. Beh, lo invidio. Quello un po' lo invidiamo tutti, è vero Paolo? Volevo intervenire per dire, sapete voi che c'è una lingua solo ed esclusivamente dei pastori degli alpeggi bergamaschi, comaschi, bresciani, che parlavano una lingua sua loro? No, che non lo sappiamo. E tu la conosci? Si chiama il Gai, io so qualche vocabolo, tipo il prete lo chiamavano il Calesen, Fuligine perché è nero, la luna, la ciaruna perché dopo sono vari vocaboli e lo parlavano solo loro. Il Gai, era... com'è che si chiama questa lingua? Il Gai, se voi andate in internet lo trovate, il Gai. Perfetto. Dei monti degli alpeggi. Questa è materia per Davide Van de Sfross, la prossima volta che viene a trovarci ci facciamo una puntata con lui che è su questo tema. Caro Paolo, benissimo, se vuoi resta in linea con noi perché tra poco c'è Crowd Me Up e chiediamo agli ascoltatori di fare da giurati per i progetti che cercano il nostro aiuto e finanziamento dal basso e vi chiediamo, cari ascoltatori, di darci una mano a valutare questi progetti all'800 24 0024. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E allora, prima di conoscere i due progetti, conosciamo in realtà l'altro ascoltatore che ci aiuterà a fare da giurato, Gianfranco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, su cosa volevi intervenire, Gianfranco? Avevo sentito la storia dello stress, però sì. Forse l'avete già superata. No, prego. Chiediamo stamattina quali sono i vostri rimedi antistress, un po' come gli amministratori delegati delle grandi aziende ricorrono al running, sembra che sia una strategia vincente, correre contro lo stress. Più che correre io cammino, e mi faccio 5 chilometri ogni due giorni, ma però la mia... Perché ogni due giorni, scusa Gianfranco? Perché ogni due giorni? Perché ogni due giorni e non tutti i giorni, per esempio? È una questione di tempo. Perché in effetti 5 km a piedi quanto ci vuole a farli? Un po' ci vuole, un'oretta? Sì, 50 minuti praticamente, devi fare almeno un chilometro ogni 10 minuti. E mentre cammini pensi, rifletti, oppure vai e ascolti la musica, cosa fai? Penso... prima nuotavo, adesso ho delle allergie. Bravo. Ma diciamo che quella camminata è salvifica, però soprattutto per evitare lo stress faccio riferimento a una massima che ho imparato da ragazzo, a una massima così, un pensiero di un signore che si chiamava Tommaso Moro, che mi è rimasto impresso fin da ragazzo e che diceva: mi impegno a cambiare tutte le cose che devono essere cambiate, di sopportare tutto ciò che non può essere cambiato, ma soprattutto, mio signore, aiutami a distinguere le une dalle altre. Io però aggiungo, dove non ci arrivi tu, che spesso non ci arriva, ci penso io. Io chi? Io personalmente, tu per a distinguere te, le une dalle altre. Ognuno ci deve pensare per sé. Gianfranco, grazie per questa proprio vera e propria pillola di filosofia. Esatto. Di saggezza. Allora, se vuoi anche tu resta con noi, fai da giurato per Crowd Me Up, cominciamo a conoscere i due progetti. Vai col primo. Allora, il primo progetto si chiama Ricordati di Pre, un progetto di musica di quartiere, possiamo definirlo. Portare la musica nei mercati e nelle piazze dello storico quartiere di Pre a Genova con DJ set ed eventi. Questa è l'idea alla base di Ricordati di Pre, che è una campagna nata per riqualificare gli spazi storici del quartiere, promuovere le attività dei commercianti e i nuovi cittadini che lo abitano. Un progetto che vorrebbe raccogliere 10.000 euro. Ce ne parla Alessandro Mazzone dell'associazione Forever Green. Benvenuto Alessandro, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, un minuto di tempo, poco più come sempre, per raccontare come e perché possiamo e dobbiamo sostenere questo progetto. Ricordati di Pre. Eccoci. Allora, l'idea alla base del progetto, diciamo, è quella di utilizzare il richiamo del festival di musica elettronica che organizziamo da 5 anni, che si chiama Electropark, e abbiamo deciso di utilizzare questo format DJ set Street Food Live per appunto organizzare degli eventi diffusi a ottobre in questo quartiere con l'obiettivo di riqualificarlo. Abbiamo coinvolto i commercianti e le associazioni che già lavorano nella zona, nel quartiere, e sostanzialmente abbiamo quindi iniziato a creare una rete di persone che già lo abitano, e noi con questo progetto chiediamo appunto di donare rispetto a diverse ricompense. Come funziona sostanzialmente? Il donatore potrà donare da 10 euro fino a 100 euro con diverse ricompense, in cambio ottenere dei buoni d'acquisto per acquistare appunto dei prodotti che possono essere... Gong! Hai sentito il gong? Si sente abbastanza. E quindi diciamo che le ricompense, stavi finendo di dire, sono dei buoni per poi fare spesa, insomma, in questi mercati. E dove pensate di realizzare queste iniziative? Lo stavi dicendo, vuoi specificarlo, Alessandro? No, allora, in un mercato della frutta e della verdura che si chiama Mercato dello Statuto, sì. In un altro mercato che si chiama Miglio Marino Zero, dove sostanzialmente si vende pesce pescato del giorno, e poi in una piazza che è Piazza Trogoli di Santa Brigida, dove ci sono diverse attività commerciali, in particolare ristoranti, botteghe tipiche. Interessante, questa è una, che io sappia, è un'attività nuova, è una cosa molto locale, ma potrebbe essere fatta anche altrove, insomma, assolutamente. Sì. In altre... La cosa che mi chiedo è se non so, la vecchina che va al mercato del pesce, se apprezzerà la musica elettronica. Tunz, così. Diciamo che noi appunto proporremo musica elettronica non chiaramente da ballare, ma anche da ascoltare, quindi sarà diciamo un sottofondo dove chi vuole può muovere la gambetta, per intenderci, certo. E chi vuole può anche, come dire... stare in quello spazio e parlare con le persone, quindi saranno in orario preserale, quindi, perfetto, diciamo, contenti fruibili. Tutti magari l'anziano non ci sente neanche tanto bene, non è neanche infastidito più di tanto da questa musica. No, sto scherzando, è un progetto originale e interessante, complimenti. Allora, cari giurati, restate concentrati, andiamo a presentare il secondo progetto. È una app social, sentiamo. Allora, si chiama, credo di pronunciare bene, Without, è una app per organizzare cene ed eventi. Quando si organizzano attività, infatti, che coinvolgono molte persone, è spesso difficile metterle tutte d'accordo. Assolutamente, posso dire che è una cosa che mi tocca moltissimo. L'app Without gestisce le preferenze degli invitati e individua le date e le location preferite da tutti. Quindi mi sembra veramente uno strumento imperdibile, anche semplicemente per fare le riunioni. In mente, quando dici, quando è che ci possiamo vedere? Io posso solo giovedì, io posso venerdì. Insomma, mi sembra utile. E allora, per completare questo progetto occorrono 10.000 euro, ce ne parla Marco Mura, che è cofondatore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, intanto spiegaci il nome, Without. Without è praticamente l'unione di tre parole, we eat out, sta appunto noi usciamo, noi mangiamo fuori, questo è... Perfetto, perché dobbiamo spiegare che è scritto con la W E A T e poi out, esatto. Anche perché, non without. Anche perché, esatto, tra poco parleremo delle Olimpiadi dell'italiano e avremo lo studente vincitore delle Olimpiadi d'Italia, quindi ci tenevamo, diciamo, a stare sulla linguistica nostra. Caro Marco, spiegaci come hai un minuto. Anche te un minuto, possiamo sostenere questo progetto, vai. Sì, non so se a voi appunto è mai capitato, ma noi che abbiamo ideato Without è capitato un sacco di volte di voler organizzare appunto una cena, un aperitivo o un'uscita tra amici o colleghi, e alla fine non riuscire mai a mettersi d'accordo sul giorno e sul luogo. Oggi solitamente cosa si fa? Si crea un gruppo su WhatsApp oppure su Messenger, si propone un'uscita e si dà il via a una chat infinita di io sabato non posso, io eviterei la pizza, insomma alla fine il risultato è tanta confusione e poca certezza. E non si va a cena spesso. Esatto. Ecco, Without nasce proprio per risolvere questo problema, quindi chi organizza tramite la nostra piattaforma può proporre una serie di date e di location, come pizzerie, sushi, trattorie, insomma locali scelti tra quelli recensiti su Google o simili. Si spedisce l'invito direttamente dall'app, sempre tramite WhatsApp, Telegram, email, Facebook. Chi riceve il link non dovrà fare altro che scegliere i giorni in cui è disponibile, tra quelli proposti, e dare la propria preferenza sulla location più gradita. Ecco, chi ha organizzato alla fine avrà davanti un quadro generale delle disponibilità dei propri invitati e sarà alla fine lui stesso a prendere la decisione definitiva sulla data e sulla location, inviando sempre tramite l'app la conferma finale. Quindi siamo tutti felici e organizzati. Mi è venuta voglia di andare a cena fuori con degli amici. Caro Marco, bene, hai sfruttato tutto il tempo a tua disposizione in termini proprio di precisione e quindi abbiamo spiegato anche Without. Allora, cari ascoltatori giurati, Paolo da Bergamo e Gianfranco da Milano, è il momento vostro, dovete esprimere la vostra preferenza. Cominciamo da Paolo. Quale dei due progetti ti ha convinto di più, la musica al mercato o la app per andare a cena fuori? L'app per andare a cena fuori, chiederei anche se è già attiva, che presto mi servirebbe anche a me, perché devo organizzare una cena. Marco, vuoi rispondere in tempo reale? Attualmente siamo online con una web app, si chiama appunto su without.com, i fondi serviranno proprio prima di tutto per brevettare il software negli Stati Uniti, poi un minimo di investimento in pubblicità chiaramente. Ci sarà integrazione più completa di social networks, verranno implementate tantissime nuove funzionalità come ad esempio la prenotazione diretta dei locali, possibilità di segnalare i locali adatti a persone con intolleranze. Perfetto. O particolari insomma allergie, si può già usare, però al momento non ci sono ancora queste implementazioni, quindi può essere che vi organizzate ma sbagliate il ristorante. Sì, può essere. Va bene. Allora, Gianfranco da Milano, l'altro nostro ascoltatore giurato, quale dei due progetti scegli? Ma guarda, con grande dispiacere, perché il centro storico di Genova io lo amo moltissimo come la città, sì, e qualunque iniziativa si prenda per vivacizzarlo sarebbe più che lodevole. Confesso che la musica elettronica mi lascia un po' più perplesso. Tu sei un amante, quindi, della filosofia, del resto hai citato Tommaso Moro prima, però le due cose possono convivere, dai. No, ma possono convivere, per carità, però a questo punto trovo invece una cosa utilissima e simpaticissima nella seconda app. Perfetto. E allora abbiamo due voti a zero per Without contro Ricordati di Prey. Io personalmente avrei votato invece per la musica nel quartiere, di quartiere, perché è un'esperienza che mi sarebbe piaciuto vedere magari anche a Milano. Faccio comunque i complimenti, facciamo a entrambi e le nostre congratulazioni. Trovate tutti i dettagli sulla piattaforma di Apple. Grazie a Marco Mura di Without e Alessandro Mazzone di Ricordati di Pre. Abbiamo ancora in linea l'ascoltatore Paolo da Bergamo, prima di chiudere. Ci sei ancora? Sì, ci sono. Ecco, ci dici qualche altra parola in linguaggio dei pastori? Per esempio, si può fare, così lo usiamo per magari per la sigla, per il promo. No, non lo sai. È complicato. Vi posso dire, il capretto lo chiamavano il balarol, perché il capretto quando salta sembra che balla. Si può fare, non ce lo riesce a tradurre? Posso dire in bergamasco. Va bene, iniziamo col bergamasco. A se per fa, ho detto bene? A se per fa. Perfetto, grazie. Va bene, ciao. Ci prendiamo il bergamasco. Complimenti, allora. Ci accontentiamo. Grazie per mille, questo. Buona giornata. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Per il tuo vino scegli il meglio, Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Grida, scatta forte la tua rabbia ed è cieca. Lei non lo sa, lei non sa quanto sei forte. Però batti spesso il passo per l'afa che tirerà. E se c'è, tu non vai oltre. Ma ripetiti ogni giorno: faccio tutto quel che posso. Sono un vero osso, duro, asso, grosso. Ti senti meglio adesso? Fatti forza, è la vita, sai, che ti sfida, ti invita a duellare con lei. Forse vinci e mollerai, magari invece riderai e sbaglia foghi, ma poi riuscirai. hai in questa grande Olimpiade. E questa è l'Olimpiade di Tiziano Ferro. Ricordate quando si andava a scuola? Per noi è solo un ricordo, ma per chi ci va invece è un presente, è un'attualità. C'erano le Olimpiadi della matematica, le Olimpiadi dell'italiano. Io non ho mai partecipato. Quella della matematica forse una volta per caso, sì, senza classificarmi assolutamente. Ebbene, ieri sono stati premiati i vincitori delle Olimpiadi dell'italiano e noi non potevamo non avere qua uno dei vincitori in una delle varie categorie. È con noi lo studente modello, credo, Simone Corbo. Buongiorno Simone. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Vincitore della sezione Senior Italia, cioè senior, quindi vuol dire che frequenti che anno di scuola, Simone? Il quarto liceo scientifico. E tu frequenti il liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza, giusto? Esatto, sì, esatto, esatto. Beh, già è uno scientifico e hai vinto le Olimpiadi d'italiano battendo, quelli immagino, del classico, quelli del classico. Che si è così? Beh, diciamo, io credo che la cultura scientifica e la cultura umanistica debbano andare di pari passo. Sì, giusto. Risposta salomonica, così, bravo, ecumenica, bravo. Sei stato... Anche perché ho visto che anche il secondo classificato è anche lui dello scientifico, quindi evidentemente siete bravi voi dello scientifico. Senti un po', ma che cosa hai dovuto fare per convincere che sei così bravo da essere il vincitore delle Olimpiadi italiane? Che tipo di prove? Esatto, soprattutto che domande vi fanno? Noi che non ci siamo mai neanche classificati per le eliminatorie, cosa succede? Allora, innanzitutto le Olimpiadi italiane si svolgono in tre fasi: una fase di istituto, una fase regionale e una fase nazionale. Per la fase di istituto e la fase regionale abbiamo domande di grammatica, di tutti i tipi, lessico, morfologia, sintassi, mentre invece nella fase nazionale è tutto incentrato sulla scrittura. Ok, quindi dovete... Cioè sulla scrittura? Componimento scritto. Esatto, quindi anzi, vari componimenti, ognuno con un determinato numero di parole, e quindi un riassunto, un commento, un testo informativo e un testo creativo. Tu l'hai fatto tutti senza fare neanche un errore, magari di grammatica, non so, niente, zero proprio. Perché... Vabbè, l'errore di grammatica spero zero, siamo alle Olimpiadi. Il problema è che devi dare qualche cosa di più, non è che basta non fare errore di grammatica, voglio sperare. È così? Esatto, bisogna rispettare la struttura del testo, bisogna rispettare le consegne, bisogna... Ma abbiamo sentito passare in motorino qualcuno che è evidentemente stato bocciato alle Olimpiadi o ce l'aveva con te? No, classificato che sta cercando di farti che ti ha superato. Scusami, ti ho interrotto. Simone, tu sai che adesso dovrai passare forche caudine, ti faremo delle domande crudeli, assolutamente difficili per verificare la tua preparazione. Lo sai questo? Lo sapevi? No, non lo sapevi. No, non lo sapevo. Però. Non te l'aveva detto nessuno. Adesso lo sai. Allora, iniziamo con questa. Questa è facile. Il trapassato remoto del verbo cuocere. Ce l'hai? No. Non è pervenuto. È bicotto. Bravo, e io è bicotto, tu? Io è bicotto, tu avresti cotto, egli è becotto, noi avremmo cotto. Ma sei un... secondo me sei bravissimo perché noi la sapevamo perché ce l'avevamo scritta. Certo. Adesso un'altra, questa è difficilina. Questa è il participio passato di esigere. Esatto. Sì, però esatto. C'è anche in un'altra versione, c'è anche in un'altra. Esatto, pensaci bene, esigere c'è un'altra possibilità. Participio passato. Allora. Nell'accezione di esigere fiscalmente, esigere un pagamento. È difficile questo. Esatto, poi riscosso, vabbè, dai, questa te l'ho detta io perché riscosso, credo che sia, però non è di esigere, scusami, abbiamo sbagliato, straordinario. Non è che puoi chiedere ma non di è esigere. Mia, non l'ho scritta io, l'ha scritta Claudia Schiattone. Direi che il campione sei assolutamente tu, bravo. Tu il campione, complimenti veramente. Ma dici la domanda più difficile che ti hanno fatto o che la sai domanda... che è stata fatta. La domanda più difficile delle Olimpiadi. Sì. Erano tutte facili. Forse qualcuna di lessico, perché il lessico magari puoi sapere tutte le regole di grammatica che vuoi, però se una parola non l'hai mai sentita è... Giusto. Certo. È di più difficile. E a te è capitato? Sì, di essere colto? Nella fase provinciale c'era qualche parola che... un po' inusuale su cui ho avuto un po' di difficoltà. Va bene, comunque sei il nostro campione, assolutamente, complimenti a tutti. Bravo Simone, continua così nella vita, impegnati e raggiungi grandi obiettivi. Che frase del cavolo, vabbè. Però ci stava, visto che ha vinto le Olimpiadi. Vogliamo chiudere con un ascoltatore velocissimo, Emilio da Trieste. Hai 30 secondi per stupirci, Emilio. Ciao, sì. No, io vi chiamo in merito a quel che riguarda lo stress. Sì. Io sono di Trieste, lavoravo in Veneto e quindi tornavo a casa soltanto per il weekend, spesso stressato. E quello che mi aiutava tanto a combatterlo è l'apicoltura. Io faccio apicoltura e quindi andare all'aria aperta. Un rimedio non semplicissimo da mettere in piedi, però interessante. Ci crediamo sulla parola. Emilio, grazie. Dobbiamo chiudere. Esatto, dobbiamo chiudere. Domani diciamo chi vince. Chi vince il gioco di oggi? Grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Filippo Aureggi. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini. Oggi sono a Meda a presentare il libro a teatro. Ciao. Appuntamento a domani, 8:30-10. Si può fare. Ciao.